Un'evasione fiscale da oltre 800.000 euro. Tanto è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Lecce che qualche tempo fa ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di un geometra del Basso Salento. Dal 2005 al 2009 è rimasto sconosciuto al fisco, dimenticando di presentare le dichiarazioni dei redditi. Un caso di evasione totale che non è certamente la norma fra gli 80.000 geometri che operano in Italia. Ma, secondo l'Agenzia delle Entrate, il compenso medio dei geometri in Italia, 33.000 euro lordi l'anno, è considerato di molto inferiore alla realtà. E contano anche le differenze territoriali, come spiega Ciro Laudato dell'Agenzia delle Entrate. È possibile individuare il reddito medio dei soggetti del nord che si attesta intorno ai 28.600 euro rispetto a quelli del centro un po' più bassi, i quali si attestano a 23.400 euro rispetto poi infine a quelli del sud e delle isole che si aggirano intorno ai 14.000 euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.